Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. 8:19 minuti. Sta' attento, Oscar, che ti scapperava una padoanata. Stava con il computer combattendo, col mouse. Siamo riusciti a evitarlo perché vedi, i santi dall'alto impediscono a chi ricorda ogni giorno di fare degli erroracci. Grazie Sant'Enrico, anche se questo Sant'Enrico era uno di quelli che mi fa un po' così, perché sai come i tanti re, imperatori santi, te l'ho detto, nei secoli passati sanno troppo di politica. E infatti l'ultimo imperatore, stiamo parlando di Enrico II, imperatore sacro romano, imperatore di Germania a cavallo tra la fine del 900 e il 1000, come doveva essere, che però era l'ultimo degli Ottoni, dinastia che andava a braccetto con le pretese della Chiesa nella famosa contesa che durerà e sarà brutale ai tempi di Gregorio VII poco dopo, sulle investiture, su chi comandava nel dare l'investitura ai vescovi nazionali e così via. E quindi, guarda caso, gli Ottoni sono favorevoli alla Chiesa e guarda caso Enrico II diventa santo. E non solo, anche Cunegonda, la sua pare pissima compagna, è beatificata, e la sua sorella diventa sposa al re d'Ungheria Santo Stefano, che diventa santo a propria volta. E vabbè, va benissimo naturalmente, nei ricordi è un pissimo cristiano, ma insomma sappiamo che si giudicava anche e soprattutto in base alla politica. A me piace invece ricordare uno che non è tanto santo, ma è beato, perché è stato vescovo di Genova, anche lui famiglia nobile, potentissimo, nella Genova in cui nel 1200 c'era un durissimo scontro interno tra Guelfi e Ghibellini. È noto, come per chi se lo ricorda ai tempi di Dante, Jacopo da Varagine, e in realtà Varagine Barazze, perché scrive questa leggenda aurea che è il libro in cui nel Medioevo si mette per iscritto, grazie a Jacopo, la vita di centinaia di santi, e che diventa il gran libro dei santi fino al 600, al 700, all'800. Ecco, quindi ricordiamoci di questa figura, ma non dimentichiamo che oggi è uno dei tanti santi Alessandro. Oggi Santo Alessandro è 30 martiri frigi, ma ti assicuro, anche oggi tu sei un nome di quelli che ricorri più di Margherita. 26 agosto, ricordatemi tutti anche, il 26 però agosto. Ce ne sono altri 29 che girano in giro per l'anno. E oggi, nel 1814, nasceva un pezzo dello Stato italiano, cioè i Reggi Carabinieri, con Vittorio Emanuele I, venivano fondati i Reggi Carabinieri, viva i Carabinieri. E però nel 1943 la mia Torino si beccava 792 morti in una notte di bombardamenti britannici. Ci siamo un po' tutti dimenticati questa storia della Seconda Guerra Mondiale, cioè di ciò che il fascismo, con la sua bella scelta, ha portato agli italiani. Torino quella notte se la ricordano ancora ormai gli anziani, ma insomma 792 in una notte non male. Io faccio gli auguri oggi non tanto e non solo a Carlo Tavecchio, soprattutto non tanto, e li faccio invece a Luca Bizzarri, che grande. È mio, insomma, io lo stimo moltissimo anche umanamente, oltre che mi piace tantissimo come comico e così via. Bravo Luca, sei però troppo, secondo me Luca Bizzarri, come capita a molti attori, sanno come uno scopre che sono di una introversione timida che, giudicandoli da quello che fanno solo in pubblico, non sembrerebbe mai, no? Classico, diciamo, il doppio volto sul palcoscenico dietro le quinte. No, un grande. Poi con Paolo anche a volte ci ascoltano anche quando adesso saranno in vacanza, saranno. Poi secondo me quando sono andati da Crozza, al posto di Crozza, sono stati, hanno ringiovanito un po' anche quella comicità. Hai visto la sfregiata è troppo, però la rasoiata tirata ieri a Crozza dalla setta del presidente del Polizia, dice: ma è andato via, non l'abbiamo molto rimpianto, e ha pure un po' faticato, insomma. Vabbè, è chiaro che insomma un po' di magari di maretto netta e di rivalità c'è. Allora, gli italiani bocciano lo Ius Soli, dice il Messaggero. Hai visto? Sì, che poi bocciano il 52-53%, cioè non è una bocciatura clamorosa, insomma, sono anche divisi, secondo me sono divisi a metà. Sono insomma. D'accordo con te, sai, mi aspettavo un dato più esatto. Eclatante. Cioè, giudicare dal polso anche delle persone che ci chiamano, le telefonate, eccetera. Oggi il Messaggero fa questo sondaggio, il 53% è contro lo Ius Soli. Comunque, caro Oscar, ci sono tante tematiche. C'è questa vicenda, da quando abbiamo invitato Emanuele Fiano, la vicenda è tracimata per questo tweet che giudicare infelice, se non vergognoso, dell'onorevole Massimo Corsaro di Direzione Italia è del poco. No, ha fatto riferimento, voleva dargli del testa di, diciamolo francamente, e però ha usato questa immagine, dice le sopracciglia gli servono a coprire la circoncisione sì, per la precisione i segni della circoncisione, cioè vi rendete conto, abbiamo detto mille volte, fare riferimento alla religione ebraica di Fiano vuol dire far riferimento al papà che ha avuto la famiglia sterminata da Auschwitz. Ma poi è una cosa da antisemiti, non so, non fare ridere, è oscena, appunto. Secondo me dovrebbe rendere inagibile la vita pubblica. Io poi seguo Daniele, non vuole Corsaro, l'onorevole Corsaro non è un torvo fascista. Cioè, magari dovrebbe sapere lui per primo che una battuta di questo genere, ma non è questione di essere politicamente corretto, ci sono temi e ci sono toni toccati i quali uno dovrebbe, secondo me, sono d'accordo, come scrive Pierluigi Battista oggi sul Corriere, inagibile, la vita pubblica diventa inagibile. E invece Corsaro, forse lo possiamo anche sentire, ha chiesto scusa, però non fa mezzo passo indietro. E una battuta, se volete volgare, volete processarmi di volgarità, mi denuncio come colpevole, ma se volete attribuirmi delle parole che non sono nel testo del mio tweet, è evidente che siamo... sono oggetto di una speculazione politica un po' meschina. Va bene. La questione è chiaro che il politico si difende sempre. Però riflessione pacata, perché i toni sono già fin troppo alti. Quando il loop per tutti diventa quello di autogiustificare toni e modi sempre più estremi, vuol dire una sola cosa: che si è smarrito il freno a mano, non il freno ordinario, sì. Ed è l'impressione un po' generale che c'è su alcune questioni, perché questa è particolarmente oscena, ma se si va a vedere, no, voglio dire, ieri Letta ha detto che le parole di Renzi gli provocano disgusto, sì. Cioè siamo oramai proprio alla separazione antropologica, la ricostruzione per così dire. Sul famoso Letta stai sereno, ecco, Enrico stai sereno. Per dirne un'altra, ecco, cioè i toni oramai, come ha ragione Antonio Polito, tre grandi poli a gara nel populismo e auguri per i prossimi mesi di campagna elettorale. A proposito di prossimi mesi, abbiamo letto, Oscar, ieri una cosa su Repubblica che ci ha un po' inquietato, e cioè salutiamo il presidente della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana, il Parlamento Siciliano, Salvatore Cascio. Buongiorno presidente, grazie di essere qui con noi. Ci ha un po' inquietato, nel senso abbiamo letto su Repubblica che tornerebbero le province vecchia maniera, cioè prima della riforma del Rio, questo in Sicilia, no? Quindi con elezione diretta del Presidente del Consiglio, dei consiglieri, gettoni. Ma è davvero così che in Sicilia tornano le province? Io mi dispiace che qualcuno sia rimasto sconvolto, però la riforma del Rio in Sicilia, con questa legge che abbiamo fatto, non viene per niente stravolta, nel senso che non ci sono più le province, ci sono i liberi consorzi. E l'impianto, l'architettura della Derria resta tale quale. È chiaro che se noi parliamo di meccanismo elettorale, questo è il motivo per cui noi abbiamo cambiato. Allora cambia. Cioè, nel senso, resta scusi. No, non capiamo. Dice che nessuno ha capito che resta l'elezione indiretta, poi ci dice ma c'è l'elezione diretta. Cioè, la domanda io la faccio al contrario. Ma la riforma del Rio, l'abolizione delle province era relativa solamente ed esclusivamente alla forma elettorale, all'elezione diretta, o era una riforma economico-sociale che aveva altri aspetti? Ma io lei però aspetti. alla domanda questo ma era un aspetto. Voi la ristabilite e la cambiate, quindi è un marcio indietro sull'elezione? Assolutamente, perché questo ragionamento che noi stiamo facendo lo abbiamo anche preannunciato anche al Ministero. non è che ci siamo inventati da un giorno all'altro questa legge. Abbiamo fatto anche un'interlocuzione in tal senso. Vogliamo dire agli ascoltatori, per capire, Presidente, sì, Cascio, cioè sì, alla prossima, non so se in ottobre, quando ci saranno, cioè i siciliani voteranno anche per eleggere il loro presidente di provincia e il consiglio provinciale? Certo. Certo, quindi si torna in questo, è un passo indietro, cioè voglio dire... Ma io lo reputo un passo avanti. Va bene, di questo dibattiamo. La politica è bella perché ognuno si fa delle opinioni. È chiaro. In Italia infatti il relativismo diventa il fatto che non si riesce a essere d'accordo su cose avanti e cose indietro. Sa, però la riforma del Rio aveva fatto anche questa cosa per non pagare più gli stipendi ai presidenti di provincia e ai consiglieri provinciali. Così invece avranno un loro stipendio, immagino, no? No, non avranno il loro stipendio. No. La differenza con la del Rio è la differenza del farmacista. Cioè il farmacista usa le dosi. Allora, mentre la del Rio prevedeva per i consiglieri della città metropolitana, per i consiglieri provinciali, sì, e soprattutto per i consiglieri del libero consorzio, il rimborso a missione, sì, perché è chiaro che in una provincia vasta, dovendo spostarsi nel capoluogo, viene rimborso a missione. Qua è previsto il gettone di presenza, che è equiparato al gettone del comune capoluogo, cioè la provincia di Enna, che fa 200.000 abitanti. Sì. Il gettone che perceperà il consigliere, sì, provinciale è esattamente quanto quello del consigliere comunale di Enna, allora, ma è comprensivo della missione. Però ci sta dicendo, perché lei dice nega, poi dopo nella spiegazione arriva a dire che avrà uno stipendio, poi chiamiamolo gettone di presenza. Ha parlato di stipendio, io uso una terminologia più esatta. Mannaggia, vabbè. Alla fine il presidente di provincia quanto si intascherà con i gettoni di presenza? Quanto il sindaco della quanto città. Il sindaco. Ecco, non è quello che prevede la riforma del Rio. No, assolutamente. No, ecco perché, voglio dire, l'ascoltatore che ascolta capisce che prenderà un, chiamiamolo come vogliamo, una cifra alla, cioè, fine del mese. Ma il problema, per lei il problema è la cifra, io sono d'accordo con lei. Le dico francamente, ha ragione. Se il problema invece è un altro, non posso essere d'accordo. Io qua in Sicilia, sì, posso, qua in Sicilia c'è stata una rivolta per le abolizioni delle province. Ormai sono morte e sepolte, non le vogliamo riesumare più. Ma Presidente Cascio, noi la rivolta dei partiti e del personale dei partiti l'abbiamo vista e raccontata. Quella è la rivolta. No, io parlo dei cittadini. Ah, dei cittadini. Ma perché dove, i cittadini? Dove i servizi non ci sono più. Dove l'edilizia scolastica è andata a quel paese. Ma per quello dove però l'elezione ormai sono l'elezione, ma aspetti, quello stiamo parlando di risorse e competenze, non dell'elezione, sì, di primo grado e dei gettoni. Scusi. E poi se ne occupino i comuni e la regione. Posso interromperlo un attimo? Sì. Non mi deve convincere sul fatto che ci sia un costo maggiore. Questo lo dico io, che c'è un costo maggiore. Di quanto? Ma guardi, questa cosa è un po' impopolare, capisce, di questi tempi. Guardi, questa impopolarità così eccessiva non la vedo, perché alla fine non è che avevano gettoni d'oro i consiglieri provinciali. Tenga presente che in media un consigliere comunale ad Agrigento, ormai con la nuova norma, per un gettone di presenza prende 70 euro, 80 euro a seduta. Sì. Quindi non sono queste grandi cifre. Però a prescindere, io siccome non lo ho, so, però noi ieri abbiamo fatto una trasmissione sui professori universitari. I professori universitari a contratto in Italia che fanno insegnamento e ricerca in tutto uguali a quelli associati e ordinari. I professori a contratto nell'attuale ordinamento universitario italiano vengono pagati solo a ora di insegnamento frontale, il resto non viene pagato, ma lo devono fare, compresi gli esami, eccetera. Allora, lei deve sapere che i professori a contratto all'università italiana oggi sono alcune decine di migliaia, vengono pagati per ora da 1 euro lordo a 45 euro lordo. Da un euro. Non lo reputo giusto, però si metta nei panni di un professore a contratto, professore universitario. E lei è sentir dire, ma lei capisce che per una seduta 70 euro. Io mi metto nei panni del professore a contratto e dico: e vederli mai 70 euro per un'ora di lezione. Sedute che poi presidente Cascio a volte sono emersi scandali, guardi, durano 10 minuti. Non stiamo parlando di chissà quale cifre, però voglio dire, lei giustamente deve fare il giornalista e deve calcare la mano su questo fatto. No, io calco la mano. La posso calcare io sul diritto alla democrazia invece. Ma ci mancherebbe, ma il diritto alla democrazia... Allora, la riforma del Rio era una società per azioni, cioè un consigliere comunale di una città maggiore aveva un peso specifico maggiore perché c'era il voto ponderato. La rappresentatività era data sulle azioni, quella è data realmente dal popolo, vi è un suffragio diretto del consigliere provinciale. Poi se fanno bene rimangono, se fanno male vanno a casa. Questo vale per i consiglieri provinciali, questo vale per noi, tutti. Questo per i deputati regionali di Sicilia. Vale, non vale per quelli nazionali, perché ancora non si sono decisi a fare una legge che metta le preferenze e che fa scegliere i cittadini. Sai che però, presidente Cascio, la sensazione di un paese che invece di guardare sempre, fare dei progressi eccetera, ogni tanto si ferma e va indietro di fronte a questo tipo di decisione della regione Sicilia, che vogliamo ricordare è stata votata in maniera bipartisan tranne il Movimento 5 Stelle. Le posso dare un ricordo? Sì. Allora, prima della riforma sanitaria in Sicilia vi erano le vecchie ASL. Le vecchie ASL erano formate dall'assemblea e dal comitato di gestione. Il meccanismo elettorale era esattamente come la del Rio. C'era un'elezione di secondo livello per votare l'assemblea e per votare il comitato di gestione. E abbiamo visto i disastri che hanno fatto. Quindi non è un problema di tornare indietro. Noi questa esperienza l'abbiamo vissuta in Sicilia, l'esperienza del secondo livello. Dice non funziona, non funziona. Perché nella segreteria dei partiti, per non dire altro, mi limito solo ai partiti, si decidono chi andrà a amministrare e a governare. Quindi lei dice molto meglio che lo decidano i cittadini, anche se questo costerà di più, e lo ammette lei stesso, costerà di più. Non solo, ma io non sono dei 5 Stelle, in questa maniera i 5 Stelle saranno esclusi dal governo dei liberi consorzi, almeno in Sicilia. In quella senso? Maniera... saranno partecipative, saranno vigili. Beh, io se ricordo il Movimento 5 Stelle non si candida. Io parlo della democrazia. No, ma il Movimento 5 Stelle, se non sbaglio, non si candidano neanche alle province perché le vorrebbero abolire, quindi non partecipano alle elezioni provinciali. Insomma, quindi vabbè, ma comunque questa è una questione diversa. È un'altra questione. Vabbè, però la dice, pur essendo il provvedimento costoso, non è impopolare, anzi, perché vede una rivolta dei cittadini che volevano il ritorno delle province. No, è esattamente l'opposto. Vedo invece un grande interesse da parte dei cittadini. Appunto, grande interesse, lei dice, non è vero. Va bene. Almeno quello che registro io in Sicilia, attenzione. Si erano sentiti scippati di un loro diritto. Presidente, posso dirle una cosa alla fine? Perché io poi ho taciuto dopo che lei mi ha detto che il giornalista deve calcare la mano. Con altrettanta soave gentilezza, le dico che il suo passaggio sulla sanità, ha detto, siccome i partiti, cosa serviva levare il voto diretto politico? Serviva una cosa secondo me sacrosanta, ma che a voi politici non va giù, cioè che la politica deve stare lontano dalla gestione sanitaria, non dovrebbe proprio entrarci. No, perfetto, lei ha detto il contrario, scusi, lei ha detto mi interrompa come non l'ho interrotta e non mi faccia perdere la pazienza. Lei ha detto, siccome tanto i partiti, anche negli enti sanitari di secondo livello, continuano a decidere loro nelle segreterie dei partiti, l'ha detto? L'ha detto? Ecco, allora, ha detto, tanto vale questa cosa, confermarla e farci le elezioni, così scelgono i cittadini, come se qualcun altro li scegliesse i candidati poi. Allora, detto questo, vede, a me piace la suavità con cui lei difende il fatto che la politica deve stare dovunque. Lei lo fa ed è coerente, ed è, secondo me, è anche molto bravo a saperlo vestire con argomenti molto suadenti. Detto questo, capisca che non è il giornalazzi la voce, non viene preso per retrogrado, lei è incarna lo spirito eterno della politica in questo paese, i partiti sono dovunque. Allora io faccio il mio mestiere a dire, se i costi aumentano bisogna dirlo, e lei lo ha ammesso alla fine. Dopodiché dice, nella sanità tanto noi non ce ne andiamo, comandiamo noi, tanto vale che facciamo le elezioni. Non ho mai punto. Detto ma lei ha detto che questo, comunque questo li nominano le segreterie dei partiti, l'ha detto. Ma io non voglio litigare, voglio solo rendere chiaro il punto che se un po' simpatia la seguo sempre, anch'io, perché dovrei anch'io. Ma perché allora deve dire che perché allora deve dire e ribattere siccome l'ho beccata sul fatto che il giornalista no, perché sta interrompendo. No, mi scusi. Ecco, allora io adesso gliela faccio dire, ma non io, lei dica pure, però non dica che se i giornalisti... Mi sono fatto prendere dalla foglia. Però, che basta chiaro, ci siamo chiariti civilmente, il costo in più, lei lo difende, e lei difende che la politica deve comandare la sanità, appunto, e niente di male, mica io contesto, basta che sia chiaro che ci ascolto. Posso? Se prego, Cascio. No, dottore, io in pratica, lei ha... fatto la sintesi di quello che io ho detto e io rivendico con forza che la politica deve avere gli onori e gli oneri e deve avere il coraggio di prendere le decisioni. La politica non può non prendere le decisioni, quindi se ci sono delle cose in cui la politica crede, o io credo, ho il dovere di difenderla. Carità. Poi posso essere criticato, essere maltrattato, posso essere vituperato, però il mio diritto di difendere alcune scelte io lo devo esercitare. L'abbia chiamato e questo lo sto esercitando con lei. Io le volevo invece, quando ho portato l'esempio della sanità, era un esempio per dire che a volte la politica ha degenerato la politica non la dobbiamo fare degenerare. Il meccanismo attuale della sanità, anche se poi la politica in seconda battuta centrerà sempre, prevede un meccanismo diverso, non prevede che un presidente del comitato di gestione sia uno con la terza media che abbia preso dei voti, ma prevede che faccia parte di un albo dei manager. Poi se è bravo, non è bravo, se è raccomandato, non è raccomandato, è un altro discorso. Io parlo come strumento, come meccanismo. E allora questo, io lo portavo ad esempio in questo senso, non so se sono stato chiaro. Oggi in Sicilia, quando... La linea, no, è che ci ha abbandonato la linea. Aia. No, ma comunque è stato chiarissimo, Presidente Cascio, cioè nel difendere anche la legittimità. Ovviamente devo dire per onestà che il 99% dei messaggi non se l'è trovato uno di gente che si scrive via WhatsApp o via messaggi. Ma avranno capito male. Non sono molto d'accordo su questa difesa del ruolo della politica, tanto da riportare all'elezione diretta delle province. Costosa, è vero, costa un po' di più, ma è la difesa della democrazia. Non capisco neanche, l'ascoltatore dice, se fosse il Movimento 5 Stelle lo avresti incalzato, quando ho appena detto peraltro che il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che non ha votato questa cosa. Ma non, comunque, tanto guarda, chiunque ti dice che sei di un partito, comunque ringraziamo il Presidente della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, cioè l'Assemblea Regionale Siciliana, Salvatore Cascio. Grazie, anche perché è esplicito, molto cortese, io devo dire, lo devo riconoscere. È stato con noi, la pubblicità e poi tanti ascoltatori. State ascoltando un programma offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, 8:46 minuti, siamo qui, eh? Eccoci qua. C'è Marco che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, che ci vuol dire? Complimenti, Marco? La vostra trasmissione mi piace tantissimo. Grazie. Soprattutto mi piace la chiarezza con cui esponete i fatti. Dica, allora, grazie. Io vorrei entrare in due polemiche. Una, quella di relativa a Fiano, e l'altra quella relativa alle dichiarazioni di Renzi nei confronti di ciò che è avvenuto con Letta e quanto altro. Sì. Vorrei fare un'affermazione magari un po' forte, permettetemi di precisarla. Io credo che noi tutti siamo un po' fascisti dentro, siamo anche un po' socialisti, sì, poi... però più ogni giorno diventiamo più fascisti. E perché dice ci piacerebbe tutti l'utilizzo noi del manganello in certe situazioni? Ma perché dice ogni tutti giorno noi sentiamo delle cose che ci fanno diventare più fascisti? Per esempio il vostro ospite di qualche minuto fa mi ha fatto diventare più fascista, più che socialista o comunista o aperto a questo tipo di discussioni. Ma come mai fascista? Cioè forse l'ha fatta un po' a noi italiani. Vede Marco, cioè, a me ha fatto magari un pochino riflettere, arrabbiare, ma da lì a prendere il manganello a me no. Vabbè, a lei, a me no, a Oscar sì, credo anche no. Il manganello servirebbe a certa gente, per me no. Questa è una scelta sua, io non entro nel merito. Siccome lei ha esordito dicendo mi stanno facendo diventare più fascista. E comunque, al di là del fatto che l'uomo nasce liberal e quindi ha molte anime all'interno, mi pare che i signori comunisti o socialisti o degli amici del caso no, ma io Marco contestavo solo il fatto che lei contestavo solo il fatto che lei è partito dicendo tutti stiamo diventando fascisti, invece lei sta, vabbè, è una constatazione che prendiamo. La ringraziamo, no, l'altra riflessione, perché siamo molto lunghi, andiamo anche sugli altri ascoltatori. C'è Fabrizio da Vicenza, buongiorno. Eccoci Fabrizio. Senta, io vorrei esprimere il mio profondo disgusto per mutuare quello che diceva Rigoletta. Ah, no, sì. Pensavo l'avessero fatto fuori da qualche parte. No, sulle affermazioni del vostro ospite di qualche minuto fa. E sa cos'è la cosa che dà più fastidio? Che c'è una disinvoltura, una serenità e un'abilità nell'intessere delle... scusi la parola, delle supercazzole come quelle che ha fatto lui, per motivare che questi continuano a fare i festini con i soldi degli altri ed è ora di finirla. Basta, porca miseria, perché quei signori lì che si inventano mille modi per aggirare tutte le norme che cerchiamo di produrre per arginare questo tentativo di mangiare sempre alla tavola degli altri senza mai pagare, non va bene, capisce? Perché io, cavolo, abito in una regione che paga le tasse e mantiene le feste che la Sicilia e qualche altra fa da decine di anni. Non posso ascoltare ancora gente che si reinventa il modo per rifarsi dare i soldi e poi nega che se li fa dare, dice no, non è vero, non è uno stipendio, fa la punta. Ah, lei mi capisce cosa? Sì, sì. Per negare quello che è sotto gli occhi. Insomma, basta, porca miseria, ecco. No, è una vergogna che la politica abbia ancora gente di quel tipo lì. Allora, Fabrizio, io capisco, c'è da dire che il presidente Cascio, che è stato con noi, è esponente di tutti i partiti che hanno votato, caro Oscar, questo ritorno. Io capisco la rabbia di Fabrizio da Vicenza, sono arrivate... in commissione tante. Non tutti i partiti. No, tranne il Movimento 5 Stelle, come ho detto prima. Cioè, quindi Cascio rappresenta, è qui, ma voglio dire... a nome di un'ampissima maggioranza. Esatto, a parte il Movimento 5 Stelle, diciamo, gli altri hanno tutti accettato di tornare indietro. Ma poi era bello che negava, dice no, non si torna indietro, però c'è l'elezione. Ah, quindi si torna indietro? Sì. Lo stipendio, no, però lo è un gettone, soave, ma quanto guadagna? Come un sindaco c'è 8.000 euro, quindi ritorna, sì, se lei lo vuol chiamare gettone, non stipendio. Io sto con il nostro ascoltatore, sì. ma perdiamo, caro Fabrizio, perdiamo, perché tanto lo vincono loro. Sì. Vincono loro, guardi, domani lo trovate sul giornale, adesso è in apertura del sito di Repubblica. E a me è scappato da ridere stamattina presto vedendo la CGIL, dico la CGIL si scandalizza e io sto con lei, la mia ironia adesso che vi dico sul perché vi scandalizza non è sulla CGIL, fa benissimo, grazie a CGIL che documenta l'IRES, il suo centro studi documenta, ma qui da anni ci raccontano i decreti Madia, le riforme che devono disboscare le migliaia di società pubbliche locali. Abbiamo controllato, ne nasce una al giorno di nuova, IRES CGIL. Allora, ecco, caro Fabrizio di Vicenza, l'amara realtà è questa qua. Sì. È poco, cioè, disboscate le aziende pubbliche, sì, è vero, oggi su Repubblica no. ne nasce una al giorno. Quindi, cosa vuoi farci? Naturalmente, se lo dici a chi ti sostiene che il decreto Madia è la svolta, ti dice che non è vero, ti dice tu giornalista calchi la mano. Dico no, guarda, chi controlla vede che tra la vostra realtà e quella dei fatti c'è uno iato, c'è un fossato, anzi a volte c'è persino un abisso. C'è Federico da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo intervenire anch'io sul discorso province dicendo che qualche anno fa la Serracchiani, per farsi bella con Renzi, ha deciso di abolire le province in Friuli. Praticamente quindi il Friuli Venezia Giulia non può più, anche perché la riforma è passata a Camera e Senato con voto essendo regione a statuto speciale, non può più avere le province. L'unica soppressa di fatto ad oggi è la provincia di Pordenone, dove io risiedo, per cui praticamente c'è questo vuoto qui. Adesso al posto delle province ci sono delle aggregazioni di comuni che si chiamano unioni territoriali intercomunali, sì. Sono enti di secondo livello che non sono partiti perché alcuni comuni hanno fatto ricorso, perché ve lo dico brevemente, attendere la riforma lasciava l'ufficio anagrafe e lo sportello unico del cittadino come competenza dell'ente, tutti gli uffici, quindi ufficio tecnico e gli altri uffici, venivano spostati all'UTI. Sì. Un comune può decidere di deve rivalersi sui servizi dell'unione territoriale, questa almeno era la riforma iniziale, e non solo, diciamo così, l'ente di secondo livello viene formato dai sindaci, all'assemblea dei sindaci si decide il bilancio dell'UTI e quindi quello che deve fare ogni singolo comune. Vabbè, cioè lei dice è un casino, allora in questo si sono opposti i comuni cosiddetti ribelli, che hanno comunque portato a 12 cambiamenti di questa riforma e hanno contribuito a migliorarla, però sì. Queste UTI di fatto non sono partite. I dipendenti delle province sono diventati dipendenti della regione, sì, per cui c'è stato un aumento. Ci sono 18 mini province. Sì. Cioè lei ci sta dicendo che è una riforma che porta al disastro. E quindi qui queste UTI dovevano partire dall'anno scorso con lo spostamento di parte delle competenze e con la fine di quest'anno essere completate secondo il piano iniziale, e non sono partite. Sì. Però è chiaro, insomma, adesso ci faccio la cronistoria, no? Perché Alessandro è anni che va avanti ogni settimana con la settimana decisiva per le prove. Riflessione aggiuntiva: Sicilia, Friuli, queste statuti speciali delle regioni, io lo dico da anni, andavano superate e invece guardate che cosa producono. Ecco. C'è Domenico da Catania, Sicilia, eccoci qua. Sì. Domenico, un punto di osservazione interessante, visto che... Innanzitutto sono Francesco, ero con l'auricolare, non si sentiva bene. La riflessione è questa: noi le province le abbiamo abolite, diciamo, sulla carta, nel senso che sono state commissariate 5 anni fa. Poi abbiamo inseguito una riforma, alla fine abbiamo ripiegato sulla riforma del Rio dopo diverse vicissitudini impugnative eccetera. E quindi alla fine noi ancora oggi abbiamo i commissari nei vari consorzi, diciamo, No, tornerete a votare come ha capito, esatto, ha sentito Cascio. Sì, ho sentito Cascio, però il concetto è l'esperienza della elezione di secondo livello, noi di fatto non l'abbiamo neanche fatta. Bravissimo, Domenico, la ringrazio perché lei ha aggiunto un elemento di chiarezza e questo avrei dovuto ricordarmi io e dirlo al presidente Cascio. Noi lo chiamiamo Domenico, ma non ho capito, lei si chiama Domenico o Francesco? Perché ho capito. Dico, nel momento in cui le competenze delle province sono rimaste in mano ai commissari, quindi di fatto sono andate nelle competenze della regione, perché di fatto questo è successo, e i cittadini di fatto non hanno mai provato il secondo livello. Sì, ma devo dire, Cascio diceva l'abbiamo già provato in altre situazioni, negli ambiti locali eccetera, negli ATO, e allora se lì non ha funzionato non prevediamo che non funzionerà neanche nelle province. Ringraziamo Domenico Francesco, non ho capito perché, se ho capito, è intervenuto dicendo mi chiamo Francesco. Non lo so. Pasquale da Firenze, buongiorno Pasquale. Buongiorno, volevo notare che mentre si parla del ritorno del fascismo, sì, insomma, perché qualche immaginetta di troppo viene messa, insomma, qua e là, per carità, da qualche sciagurato che probabilmente non conosce bene la storia, mentre poi 17 miliardi delle nostre tasse. Vengono dati gratuitamente e con dei commissari scelti proprio in relazione ai loro titoli. Va bene, di malfattori, va bene, che devono liquidare queste banche. Questi 17 di fronte a cui io mi sento totalmente impotente, perché purtroppo è un governo di non eletto e sta facendo tutta questa operazione con una facilità estrema. Mi riferiscono in 20 minuti al diavolo di cameralismo, se fosse questo il problema, per la velocità con cui si è generata questo decreto, mi lascia perplesso su quella che è la riforma che voleva rendere. Bene, Io mi sento impotente. Non sarà mica anche questa una un po' fascista, cioè quella di dice visto a proposito di fascismo. Pasquale, come sono? Sono d'accordo su quasi tutto. Lei e dunque, non sono 17 miliardi, sono fino a 17 miliardi di soldi pubblici dati a Intesa e a reggere i passivi delle banche. Questo solo per rendere più comprensibile quello che ha detto. Certo, il modo ancora mi offende. Io sono come lei, uno che su questo decreto, cioè la fiducia, la fiducia, l'impianto, il fatto che sia stato dettato da Intesa. Guardate, non c'è nessun paese al mondo una banca che detta un decreto legge con 5 miliardi a se stessa. Questo non c'è. Se vogliono mi querelino, ma è così. Allora, dobbiamo andare in giornale radio, ma siamo insieme fino alle 9.30, parleremo di immigrazione, ma non è che parleremo di immigrazione nel senso che non possiamo parlare di quello che abbiamo parlato finora. Voi chiamateci all'800 24 00 24, tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qua, sono le 9 e 4 minuti e siamo in diretta fino alle 9.30. Allora, eccoci qui. Tu vuoi andare in pensione prima, di la verità, anche tu, anche tu. Allora, ti ha colpito perché... Lorenzo Nespoli che vuole andare in pensione, il suo sogno ha 40 anni. Ma mi ha colpito che sotto elezioni mica rimettono solo, dice meno di 40 anni, cioè praticamente voleva già essere dichiarato 600 pensionato. Euro al mese a 40 anni, ma guarda che sono molti italiani che l'hanno fatto a 40 anni. In altri tempi, come? 1200, però, 1.200.000. Vedi, sotto elezioni tutto assume una forma diversa, perché sotto elezioni le convergenze più improbabili si manifestano. Però Oscar, quindi oggi la parola d'ordine è basta con gli scatti automatici che avevano dato stabilità, contribuito alla stabilità del sistema pensionistico, stabiliti perché man mano che va avanti l'attesa media di vita si adegua all'età pensionabile. Esatto, però Oscar, io che sono molto più, mi interrogo, ho molte meno certezze di te, ho mille con dubbi. Questa premessa già sbaglio. No, mi dici che sono uno che va avanti con i numeretti in testa. No. Hai delle idee, no? Come su questa delle pensioni. Io invece, quando ho letto oggi che i presidenti di Commissione Lavoro a Camera e Senato, Damiano e Sacconi, hanno posto il problema a dire: ma dobbiamo davvero adeguare il livello delle pensioni? Non hai pensato alle elezioni e all'atteggiamento elettorale? No, ho pensato all'ascoltatore di tre giorni fa che ci ha chiamato e ha detto: scusate, l'età pensionabile, l'adeguamento in base all'Istat, l'età media. Sì. Io ho tre generazioni prima di me, nella sono mia famiglia, morte. Non siamo mai arrivati fino a 70 giusto. Anni. Quindi, dal mio micro punto di vista, questa cosa dell'aspettativa di vita, scusate, faccio fatica ad accettarla. Certo. E abbiamo spiegato che l'Istat ovviamente fa un'aspettativa di vita media, non è che abbiamo spiegato soprattutto che il sistema non è a capitalizzazione, nel qual caso avrebbe ragione, cioè quello che versa nella sua vita è la base. Perciò che quando decidesse di avere l'assegno pensionistico gli viene poi spalmato l'assegno pensionistico. Ma siccome noi non siamo in un sistema a capitalizzazione, ma siamo a ripartizione, mille volte lo ripeterò, ma non entra nella testa di chi ci ascolta, cioè coi contributi di chi lavora in questo mese paghiamo le pensioni di quelli di questo mese, allora purtroppo bisogna farsi un conto sulla sostenibilità generale di un sistema di ripartizione, e si fa con la media, la mediana e così chiaro. Via Però capisci che sono due punti di vista, il micro punto di vista dell'ascoltatore, che non ricordo come si chiama, e il macro punto di vista dello Stato che fa questo tipo di ragionamento, che sono conflittuali. Cioè l'ascoltatore dice sì, va bene, è tutto giusto dal punto di vista macro, ma io e le mie generazioni la viviamo come un qualcosa che non capisco, cioè fatico ad accettare, ecco. Tutto qua. Beh, in questo caso fatichi ad accettare la ripartizione, cioè la solidarietà. Infatti io voglio dire, io sarei per un sistema a capitalizzazione pura, contributivo e a capitalizzazione. E se poi però l'ascoltatore non arriva a 67 anni, che si fa se fosse così di quello che ha versato? Beh, non ho capito, però da questo punto di vista, allora che cosa vogliamo fare? Cos'è? È un assegno circolare secondo te? Non è un assegno circolare, è il rapporto previdenziale. No, comunque, insomma, il dibattito è che ora, oltre alla CGIL, oltre a Damiano e Sacconi, c'è una richiesta di generale, non far scattare dalla Lega ai 5 Stelle alla l'adeguamento, destra. L'adeguamento. E la gara a chi dice agli elettori: oh, ricordatevi, chi vi vuole prepensionare siamo noi. In questa legge di stabilità i giovani non abbiamo dato niente, ma abbiamo già speso nel 2018 7 miliardi per pensionare noi, cari anziani che votate, eccoci qua. Del resto l'età media italiana si è alzata, cari giovani. In Italia oggi sono 46 anni e voi non andate a votare. Invece chi ne ha di più vota, noi lo sappiamo, noi amici dei partiti, noi sappiamo bene chi vota e quanti anni ha e che cosa si vuole sentir dire. Insomma, cambiare se non si è capito. Naturalmente io sono un fosco giornalista. Ma c'è qualche partito che di fronte a questo dice... Se me lo segnali? Mi fa... No, chiedo, non lo so, perché ho visto che c'è un'alleanza bipartisan a chiedere di non adeguare hai visto qualcuno l'età pensionabile a 67 anni. Solo noi fessi da fuori diciamo guardate, compromettete ulteriormente lo squilibrio finanziario di un paese che ha già oltre il 16% all'anno di PIL. Sai questi numeri tecnici che noia, che tutti dicono che noia, ma perché i numeri Giannino, ma che palle, già, intanto però pago io. Ma anch'io sei per questo. Ecco, allora ricordiamoci. Sai com'è? Diceva Totò, il mondo si divide in due. C'è chi ha i morsi della coscienza e c'è chi ha i morsi della fame. Due punti, la politica ha fame. C'è Maria da Genova, ci chiama. Buongiorno. Buongiorno, dottor Milan, buongiorno, dottor Giannino. Grazie per le vostre... esercizi funambolici con le parole che veramente grandiosi. Io volevo disturbare un attimo per dire che mi associo, concordo col primo ascoltatore che ha reagito dicendo che i suoi moti dell'anima lo portavano a sentirsi appunto quell'area, come dire, fascista. Sì, va benissimo. Ma voglio dire, contro sono i morti dell'anima, contro è passare all'azione. Io mi sento di concordare con lui, perché un morto dell'anima molto, come dire, simile a questo comportamento lo muove. Di lì all'azione, ad agire, è diverso. Ah, però dire mi sento... un conto è, Maria, dire mi fa arrabbiare, mi fa infuriare, mi viene il moto dell'anima di dirgli... porca miseria, ma altro dire, conto mi, è il manganello fascista, perché... col manganello è un po' diverso, dottor Milan, no? Lei è scandalizzato, però, mentre invece non mi sembrava il caso di scandalizzarsi per dire noi non ci associamo, noi non concordiamo. Io non concordo. Sì, ma lei non concorda, d'accordo, ma nessuno concorda per passare all'azione. E beh, ma dire allora sono fascista così perché è una parola vuota. La nostra semplicità di ascoltatori, capisce, qualche volta usiamo anche una terminologia che non è propria. La terminologia propria la sapete usare voi. Non è così, la sa usare benissimo. Insomma, ci sono degli argomenti in bocca dei politici che fanno prudere le mani, oltre che ardere l'anima. Che il manganello, diceva l'ascoltatore di prima. Ecco, io voglio dire, dico... va bene che uno sia più consapevole e faccia arrabbiare, però non diventerò mai fascista perché mi arrabbio per una dichiarazione di un politico. Io, come dice spesso Oscar, magari sbaglierò e sono in minoranza, ma io è così. Maria, la ringraziamo. Giampiero da Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io la ringrazio perché mi state dando voce. La parola. Io mi riferisco al presidente Crocetta quando con la sua pacatezza faceva dei discorsi. Non era Crocetta, era Crocetta, presidente di commissione Cascio, no, almeno non attribuiamo parole a Crocetta. Torniamo indietro, vi avvolgo. Va bene, Cascio. Allora, comunque per me è un politico. Allora, quello che è la loro pacatezza non è vicino al loro cuore, perché l'intelligenza va bene, però la politica è anche cuore, è donarsi. Fin quando questi signori non capiranno che devono pensare anche con il cuore, non si avvicineranno mai alla gente, saranno sempre lontani da noi, quindi non avranno mai il polso della gente. Lei ha una straordinaria visione della politica con il cuore, bellissima. Grande afflato, bellissima. Davvero, sì. Credo che donare per la politica voglia dire quanto dobbiamo donare noi come tasse, eccetera. Però Giampiero, è bella la sua visione. E magari fosse diffusa, Giampiero. Magari, effettivamente. La ringraziamo. Giovanni da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. E volevo chiedere una cosa a Giannino, che è sempre così informato. L'anno scorso ero in Svizzera e stavano caricando un pullman di migranti. Sì. Me ne sono ritrovato al confine e li hanno praticamente scaricati in Italia. Sì. E gli italiani li hanno accettati, li hanno ripresi, eccetera. Ma dico, ma noi potremmo fare lo stesso, li scarichiamo in mare? No. Poi chi gli ha detto che quei migranti venivano dall'Italia? magari venivano dalla Francia, dalla Germania, dal Liechtenstein. O c'è un accordo sottobanco anche? No, non c'è un accordo sottobanco. Diciamo che tra l'autorità di frontiera negli ultimi due anni, quello che è avvenuto, sia pure all'interno di Frontex, Frontex serve per tutelare insieme i confini esterni dell'Unione Europea. Invece, come sa, noi abbiamo più volte sospeso Schengen in questi due anni a fronte del fatto che i paesi dicevano qui non ci possiamo fidare l'un dell'altro dei controlli, e quindi sono stati ripristinati su alcune frontiere controlli molto occhiuti. E quello che avviene per esempio a Ventimiglia, nella frontiera con la Francia che lei ha evocato, ieri è morto un altro migrante proprio a Ventimiglia. In quel tratto di frontiera le autorità francesi, la gendarmerie, e le diverse forze, e non solo quelle dell'ordine, c'è anche un dispositivo particolare di sicurezza francese, dire la verità, controlla molto attentamente flussi di turisti, di immigrati che valichino il confine, non solo nelle strade ordinarie, e li restituiscono al nostro paese perché non sono stati identificati secondo l'hotspot delle regole europee previste. Questo è quello che lei ha visto avvenire, e questo è quello che purtroppo capita e che spiega perché ancora ieri l'Italia ha detto, Gentiloni ha detto una cosa importante, di guardare che noi non siamo in condizione di fare la distinzione solo tra rifugianti ed immigrati economici. Sì. Macron infatti ha risposto: noi gli immigrati economici non li vogliamo. Quindi, a questo proposito, caro Oscar, vogliamo salutare un sindaco di Besnate in provincia di Varese. Buongiorno Giovanni Corbo. Buongiorno a voi. Besnate quanti abitanti fa? Circa 5.700. Lei è Partito Democratico, giusto? Io sì, sono sindaco di una lista civica, sì. ma io sono personalmente iscritto al Partito Democratico. Allora, Giovanni Corbo da credo un paio di giorni ha annunciato sciopero della fame a oltranza. Da tre giorni. Ecco, come va intanto? Ma va benissimo. Qualche mio amico mi dice che forse ne avevo bisogno. No, però la questione è molto seria. Lei è arrivato a questo gesto perché sono arrivati nel suo paese, credo, 32 migranti, 32 profughi. Che cosa sono stati? Migranti economici? Cioè sono stati identificati oppure hanno fatto richiesta? Premetto una cosa: quando il prefetto il 27 giugno mi ha chiamato per dirmi che sarebbero arrivati dei richiedenti asilo sul territorio di Besnate, mi aveva comunicato che sarebbero arrivati in 15 richiedenti asilo. Tra l'altro, senza che noi come amministrazione ne sapessimo nulla preventivamente, perché è una cooperativa che aveva partecipato al bando prefettivo. Funziona così. Sì, la cooperativa così. Si informa, quindi, il prefetto informa, esatto. Caro sindaco, ti informo che arrivano. È chiaro. Non chiede l'autorizzazione, informa. Informa, non chiede autorizzazione al sindaco, ovviamente, il prefetto è il nostro capo, il capo dei sindaci. Quindi, quando mi ha comunicato questa notizia, devo dire che in un certo qual modo penso che qualsiasi sindaco ormai si aspetti che prima o poi arrivi la telefonata del prefetto, ma devo dire che avevo anche un intimo compiacimento, perché sentivo anche la necessità da sindaco di dare un senso di responsabilità a questa situazione che si sta creando in Italia, e anche umanamente faceva piacere poter dare un contributo all'accoglienza. Il problema qual è stato? Che poi nel momento in cui mi sono recato presso il centro, presso questi immobili dove erano ospitate queste persone, invece di avere 15 persone ne ho trovate 32. Ora, queste 17 in più l'hanno scombussolata. Ma più che il numero in sé, che comunque... Già avere 15 persone su un proprio comune come richiedenti asilo, bisogna fare un lavoro anche sulla comunità. Sì, per far sì. Però lei ha detto che era disposto, era anche... Però, a parte che non è che avessi grande scelta, però intimamente mi faceva piacere accettare questa sfida. E perché 32 no? E il problema del 32 è perché c'è un criterio ben definito dall'accordo tra ANCI, quindi Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e prefetture, per cui il rapporto previsto tra richiedenti asilo e numero di abitanti è di 2,5/3 richiedenti asilo per 1.000 abitanti. considerando quindi hanno superato la proporzione. L'hanno raddoppiata. L'hanno più che raddoppiata. E ovviamente, siccome questi parametri non sono parametri diciamo, basati su algoritmi o su tabelline Excel, sono dei parametri che ovviamente sono stati approfonditi da parte di analisi, immagino, di impatto sulle comunità, di risorse necessarie anche per far sì che l'accoglienza si possa esplicare in maniera giusta, adeguata. È evidente che 32 persone, tra l'altro in un immobile che l'ASV, a seguito di verifica, ha dichiarato che il numero è sicuramente determina un sovraffollamento. Lei li trova troppo e quindi ha fatto questo gesto eclatante. Però quello che ci colpisce, Oscar, stiamo parlando di un sindaco del Partito Democratico, lista civica, comunque Partito Democratico, quindi certo non un sindaco, come dire, di una linea politica del governo, no? I sindaci del Partito Democratico avvertono quello che poi l'opinione pubblica pensa e di fronte a una contraddizione. La contraddizione non è così infrequente nel sistema, in questo tipo di sistema. Ricordiamo che noi abbiamo tre livelli concentrici: i primi centri di emergenza che si occupano di chi sbarca, dove sbarca, eccetera; il secondo livello, SPRAR è quello condiviso con i comuni, è pienamente condiviso, però ospita a malapena 40.000 degli oltre 220.000 soggetti oggi in carico ai tre livelli di che sto in il sistema SPRAR. I comuni codecidono tutto, decidono loro insieme allo Stato e così via. Invece 190.000, quasi 180.000, stanno nel sistema CAS, cioè sono quelli in cui il governo deve chiedere ai prefetti, come ci ha spiegato il sindaco: guarda, te ne devi occupare tu, decidi tu dove, come, una cooperativa nata ad hoc, eccetera. Ma ecco, e questa è il più del flusso sul territorio, arriva con le modalità che ci ha spiegato il sindaco. Sai, può essere il PD, può essere della Lega o dei 5 Stelle, ma alla fine, se ti trovi in quelle condizioni, purtroppo non puoi fare nulla. Ecco, questa è una delle tante contraddizioni, secondo il mio modesto avviso, in 20 anni di modello di gestione. Non so che ne pensa il sindaco. Quanto detto da Oscar Giannino è oggettivo, non si può commentare perché è proprio la realtà dei fatti, quindi è una cronaca. Io, per dare un senso anche al discorso dei parametri che sono stati individuati dall'accordo ANCI prefetture, faccio un esempio concreto basato sulla realtà del mio comune. Normalmente la percezione dei cittadini diventa migliore nell'accoglienza dei richiedenti asilo quando queste persone vengono anche utilizzate sul territorio per fare lavori socialmente utili. Normalmente c'è sempre un ritorno positivo da parte della comunità, però è evidente che per poter fare un'operazione di questo tipo è necessario che ci sia anche personale del comune, perché non possiamo mandare le persone a fare dei lavori socialmente utili senza che ci sia del personale del comune che li possa guidare. C'è la necessità che del personale del comune guidi queste persone. Voi immaginate, in un comune di 5.700 abitanti, col blocco del turnover che abbiamo ormai da tanti anni, io ho soltanto due operatori che sono in strada. Gestire 15 persone per fargli fare dei lavori socialmente utili che gratificano sia loro e rendono accogliente anche la comunità nei confronti di queste persone, già su 15 persone mi diventa difficile. Su 32 vuol dire proprio dire ti parcheggio delle persone lì sul tuo territorio, tanto a me non interessa l'accoglienza, niente, ma io ho una situazione di emergenza e gestiamola così. Però se mi permettete, allargando un po' lo sguardo sul discorso dei richiedenti asilo, io vorrei anche dire che il mio gesto è dovuto anche al fatto che si poteva parlare di emergenza 4 anni fa, 5 anni fa, ormai non è un'emergenza, ormai è diventato un consolidato il discorso dei flussi sulle nostre coste. Se non ci si basa più se ci si basa ancora sul discorso emozionale da parte di alcuni sindaci responsabili che fanno accoglienza, o ideologizzato da parte di altri che invece creano ostilità all'accoglienza, non ne veniamo fuori. Ecco. Io credo che bisogna fare un gesto di come io sto cercando di fare, di razionalità sul problema. C'è una situazione, ci sono dei parametri. Non è possibile che 2.700 sindaci hanno i richiedenti asilo e più di 5.000 non hanno neanche un richiedente asilo. Però sindaco, cioè, lo sciopero della fame è un gesto, come dire, perché lei va avanti. Però come vedi la logica è lineare, no, ma è chiaro, non, cioè, non è l'appello alla pancia, no, è l'appello alla testa. Lei fa il gesto della, fa questo gesto anche per attirare l'attenzione su una problematica che ci sta spiegando. E a questo punto che succede? Cioè va avanti a oltranza, cosa chiede con lo sciopero della fame? Allora, io sono in contatto con il prefetto che si sta lavorando alacremente, ma davvero non è per abusare di avverbi o di aggettivi, sta davvero lavorando in maniera intensiva per cercare di condurre il numero di richiedenti asilo sul nostro territorio, sul territorio vuol tornare a 15, vuol tornare a 15. Io dico torniamo a 15, torniamo a un numero congruo rispetto a quelli che sono i parametri dell'accoglienza individuale dagli accordi. Chiaro. Adesso io faccio il farmacista, non è che mi No, se non sono 15 o 16, però insomma non certo il numero che sono arrivati, ecco, questo sì. Sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Besnate Varese, Giovanni Corbo, per essere stato con noi. Terremo anche sotto controllo. Buono il suo appello a ragionare, visto che sono anni che ci abbiamo. Insomma, sì, c'è lo sbalzo in corso di magnitudine, però i numeri sono importanti. La ringraziamo, sindaco. Dobbiamo andare veloce perché ci sono anche due ascoltatori. Se ce la facciamo prima di chiudere, Massimo D'Ancona. Buongiorno, Massimo. Buongiorno ragazzi, e senti numeri uno, un quiz velocissimo, trovatemi tre motivi, tre vantaggi che deve avere un italiano della penisola nell'avere compresa la regione Sicilia con noi, trovatemi tre vantaggi, aspetta, un giochino. Escluso ciò che la natura gli ha dato di bello. Non esageri, Massimo. Mare, e trovatemi tre vantaggi nell'avere la Sicilia. Ma che vuol dire posta così? Allora io potrei dire i tre vantaggi per le Marche. Scusi, è provocazione per provocazione, lei D'Ancona. Perché le Marche invece tre vantaggi per averlo? A parte il turismo, le province. Trovatemi tre vantaggi. Tre vantaggi, non lo so. Va bene, la domanda sardonica, irricevibile pubblicamente, ma sardonica. La domanda è respinta, vostro onore, Massimo D'Ancona. Comunque, è chiaro, per Massimo non ci sono. Estrema sintesi. A parte, non lo so, neanche la gastronomia non vale. Oltre la gastronomia avrei dei dubbi anch'io, però questo io perché sono contrario alle cucine di forte impronta araba, non ci posso fare nulla. Ma no, è una questione di gusto, mica capito, è una questione razziale. Mio Dio, e quanti anni i cannoli, mamma mia, no. La granita, no, il perdonabile nordico, il pomodoro pacchino, il pesce, che vuol dire il pesce, cioè non è che il pesce c'è dovunque, il vino, il marsala, donna fugata. Non mi parlare di vino su adesso. Vabbè, Oscar, ma cosa mangi, cosa bevi? Per favore, io ho grande rispetto per le aziende vitivinicoli. I vinicoli siciliani, ci mancherebbe, però in piemontese gli dici che la Sicilia è il vino, le acciughe. Ma viva la grandezza delle tradizioni italiane, io non voglio dire niente, però la cucina no. Claudio da Roma, mamma mia, questa la pagherò carissima. Claudio, lo so da Roma, buongiorno. Eccomi, provo a fare una domanda anch'io, vediamo se Sardoni o meno a Giannino. Parlavate di pensioni, allora, ma come mai secondo voi in Italia non c'è una rivoluzione vera e propria quando la generazione come la mia, quarantenni, ma anche i trentenni, cinquantenni oggi, che andrà in pensione probabilmente intorno ai 69 anni, almeno per quanto mi riguarda ho fatto il calcolo, e sta pagando le pensioni come spiegava Giannino, al metodo di ripartizione ai pensionati attuali, e che prendono una pensione chiaramente molto diversa dalla nostra e che sono andati in pensione molto prima di quanto andremo noi, e che non solo fanno questo e mantengono quindi una generazione degli ottantenni che poi oggi ci aiutano perché ovviamente i giovani non sono in grado, ma pagano anche gli interessi sul debito che la generazione prima di noi ha lasciato. Ma perché non c'è una rivoluzione dei 30 e 40 anni? Pochi hanno la consapevolezza che lei ha espresso in maniera così concisa e precisa, perché pochissimi ce l'hanno. Perché pochissimi ce l'hanno davvero, nel senso che io sono convinto che la stragrande maggioranza, per esempio, dei lavoratori dipendenti, non dovendo tirar fuori ogni mese come facciamo noi autonomi i contributi, non lo capisco, però è una mia risposta, può valere quello che vale, ma pochi ne sono consapevoli. Con Claudio da Roma ringraziamo e ringraziamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. E ricordate tutti che ogni 8 ore perdete tutti di tasca vostra 1 milione tra l'Italia, 3 milioni al giorno, questo è il nuovo ritmo. Voi perdete ogni 8 ore 1 milione di tasca vostra, cari ascoltatori. Io non ce l'ho, quindi il problema per me è risolto. No, ringraziamo anche Chiara Compagnone, Peter Bescapè in regia, e va bene, oggi sono felice di dare 8 milioni, no, quanti? 3 milioni al giorno. Al giorno, tanto quindi un milione ogni 8 ore, più di 100 milioni al mese dalle tasche nostre. Ciao, a domani.